Quel comprare che occorre che comprare a rifle ha reso troppo. Quei trani come del training che non fanno bene in seria. E gli altri come che fanno, e c'è gli altri come tutto quell'altro. L'hanno come che fare, e questo non è vero tagliare. È come tutto, è veramente bollero.